Ad alta voce. Teresa Saponangelo legge Il paese di Cuccagna di Matilde Serao. L'osteria di Babbasone. Il dichiaramento. Nella piccola osteria di Babbasone, sulla via che dal Moiariello di Capodimonte scende ai Ponti Rossi, non vi era, in quella chiara mattinata d'inverno, nessun avventore. Era proprio una casa colonica, rozzamente fabbricata, formata da un pianterreno in cui si trovava una grande cucina affumicata, dal grezzo e ampio focolare di tufo, e da uno stanzone dove erano poste le tavole rustiche per mangiare e per bere. Al primo piano, a cui si accedeva da una di quelle curiose scale esterne meridionali, dormiva l'oste con sua moglie, nella stanza sopra la cucina. E l'altra stanza nuda, che serviva da dispensa, era piena di salami nerastri e formaggi puzzolenti. Alle mura pendevano le trecce degli agli, i mazzi delle cipolle, delle sorbe e qualche popone d'inverno sospeso a un vinco. Giù, innanzi all'osteria, vi erano due o tre pergolati, che dovevano essere stati folti di verde nella primavera e nell'estate e che adesso erano scoperti, mostrando la loro rete di legno. Sotto i pergolati, le tavole polverose e sconnesse, coperte di foglie secche scricchiolanti. Di fianco all'osteria era un gioco di bocce, circondato da siepi basse di mortella. L'oste aveva fatto fare una scala di legno interna, che metteva in comunicazione il pianterreno col primo piano, e alle spalle dell'osteria aveva fatto aprire una porta che dava sui campi. Dalle finestre del primo piano si vedevano i sobborghi napoletani della via Reclusorio, della stazione ferroviaria e le paludi fuori Napoli e la collina del Camposanto. Alla osteria si accedeva da due strade, una che veniva dal Moiariello, l'altra dai Ponti Rossi. Vi era anche la via attraverso i campi, ma non contava. Però, se era deserta la campagna intorno alla rustica taverna, qualche comitiva certo si aspettava, perché la serva, che era incaricata della cucina, nel silenzio di quella bella mattinata, dava sopra un gran tavolone dei forti colpi a certe costolette di maiale. Sul focolare la caldaia dell'acqua bollente per maccheroni gorgogliava. Innanzi alla porta dell'osteria l'oste, uno scaltro contadino dal naso aguzzo e dal mento aguzzo, in un tinello per terra lavava delle insalate e dei finocchi, buttando nelle foglie cattive alle magre galline che pigolavano là innanzi. Lo stessa, la moglie di Babbasone, era assente. Il marito la mandava spesso in città, al mercato di Porta San Gennaro, a comperare qualche pesce fresco, della trippa, ciò che lassù, al mercatino di Capodimonte, era impossibile trovare. La mandava via spesso, quando gli conveniva, rimanendo in casa con la sola vecchia serva, che era tutta intenta alla sua cucina, servendo lui e un suo ragazzetto di 12 anni gli avventori. Il ragazzetto in cucina grattava il bianco e piccante cacio di crotone, che sembra calce, che brucia il palato, ma a cui le gole del popolo napoletano non fanno opposizione. Era un'ora dolce e tranquilla, appressandosi il mezzogiorno. L'oste ogni tanto levava gli occhi dal suo lavoro per guardare in giù, se qualcuno arrivasse dalla via bassa dei Ponti Rossi, o in su, se qualcuno scendesse dalla larga strada del Moiariello. Ma la faccia arguta di Babbasone era serena, come la mattinata di dicembre. Si chinava di nuovo a immergere i ciuffi della lattuga nell'acqua già terrosa del tinello, quando, senza che egli l'avesse veduta giungere, sorse dinanzi a lui una figura nera di donna. Era una ragazza che di poco aveva oltrepassato i 20 anni, ma così consunta dalla fatica, dalle privazioni e dai dolori, che pareva averne 10 di più. E nello scarno viso solo gli occhi grandi neri bruciavano. Era Carmela, la sigaraia, la infelice sorella di Annarella e di Maddalena, la disprezzata amante di Raffaele, detto Farfariello. Era giunta a piedi, naturalmente senza far rumore, e sul volto, alla stanchezza del lungo cammino, si aggiungeva un'esaltazione invano repressa. Era vestita come una stracciona, con un abito di percalla tutto sbiadito in pieno inverno, con un cencio di scialletto rosso intorno al collo e un grembiule di cotonina tutto aggrovigliato legato intorno alla cintura. «Buongiorno, compare», disse ella salutando l'oste con uno dei vocativi affettuosi del popolo napoletano. «Buongiorno, bella figliuola», rispose lui coprendola con un'occhiata di diffidenza. «È permesso di bere un bicchiere di vino?» chiese, frenando il tremito della voce. «Siete voi sola? E che fa? Non sono persona da spendere mezza lira? Voi bevetevi pure tutta la cantina», disse l'oste con un tono affettato di scioltezza. E si scostò per lasciarla entrare nello stanzone, seguendola sino a tavola. Ella si sedette a una rozza seggiola, dopo aver dato un'occhiata intorno rapidissima. Non vi era nessun avventore. «Vino di Gragnano? Merci». «Una mezza di 7!» gridò l'oste verso la cucina, pulendo la tavola col suo grembiule. «Ci volete mangiare qualche cosa?» soggiunse poi, sogguardando sempre la ragazza. «Non ho fame, ho sete», disse la ragazza abbassando gli occhi. «Datemi 2 soldi di castagne secche». L'oste, lentamente, andò a prendere una misurina di quelle bianche e raggrinzite castagne durissime che eccitano la sete. Intanto il ragazzo aveva portato una caraffa di vetro verdastro piena di un vino nerissimo, chiusa dalla solita foglia di vite. Carmela si mise a rosicchiare le castagne, piano piano, bevendo ogni tanto 2 dita di vino. «Volete favorire?» disse all'oste, che gironzava intorno un po' inquieto. «Grazie», disse lui, che non rifiutava mai. E siccome c'era un sol bicchiere, egli bevette un lungo sorso alla bottiglia, facendo gorgogliare il vino, asciugandosi le labbra. «Come si sta quieti qua sopra?» disse la ragazza, volendo attaccare discorso. «E avete gente sempre?» «Non sempre, secondo le giornate». «Vengono napoletani, eh?» «Vengono». «Queste sono 2 lire. Comprate un berrettino al vostro ragazzo», mormorò ella, vedendo la diffidenza dell'oste. Costui le prese senza esitare e le intascò. Poi stette, come aspettando la domanda. «Deve venire una comitiva di giovanotti verso mezzogiorno, eh?» «Sì, signora». «Ci sta un certo Farfariello?» «Così mi pare». «Ah», disse ella con un profondo sospiro. «Vi è fratello? Mi è innamorato». «Non vi sono donne con loro», osservò l'oste sbadatamente. Lo so», disse ella crollando il capo. «Ma non vengono soli». «Forse viene pure un'altra comitiva». «Per fare che?» gridò lei, sentendo concentrarsi la sua paura. «Per mangiare, figliola mia. Per mangiare. Nient'altro?» «Niente. Da babbasone nient'altro si fa». «In parola vostra?» «In parola mia. Fino a che stanno nella mia taverna, niente succede». «Sì, ma dopo?» «Ah, e dopo io non c'entro. Quando si sono allontanati 10 passi, io non c'entro più. Capite?» Ella rimase in silenzio, pensosa. Una macchia di vino era sulla tavola ed ella col dito l'allungava, disegnava dei geroglifici di vino. «Compare, mi volete fare una carità?» «Non parlate così. Una vera carità, compare, che Dio vi renderà su quel bel figliuolo vostro. Fatemi assistere a questa mangiata, da una stanza, da un granaio, da un buco qualunque, donde io possa vedere senza essere veduta». «Figliola mia, questi sono imbrogli in cui babbasone non ci si mette. Se volete bene a quel figlio, non mi dite di no. Non è imbroglio, per quanto è grande il nome della Madonna. È un pensiero mio, è un capriccio mio. Voglio vedere che fa questo innamorato mio». «Già, per far qualche scenata, qualche lite». «Non mi muovo, compare mio, non mi muovo. Ve lo giuro per la vista degli occhi. Guardo questa mangiata, nient'altro». «E non uscite?» «No». «Non parlate con nessuno?» «No, no». «Se vi trovano, non dite che vi ci ho posta io». «No, no, no». «Venite con me», disse lui risolutamente. Un rumore di ruote, uno schioccare di frusta si udì dalla via di Capodimonte e in una carrozza da nolo apparve Raffaele insieme ad altri 3 giovanotti, quasi tutti della sua età. «Oh, vergine addolorata!» pianse la voce di Carmela di dietro ai vetri. La carrozza fu pagata da Raffaele e, contrariamente alle consuetudini, poiché sempre il cocchiere partecipa ai piaceri della scampagnata, questa volta il cavallo voltò e la carrozza scomparve dalla via donde era venuta. I giovanotti, coi calzoni stretti al ginocchio e il cappelletto sulle 23, facevano adesso grande baccano nello stanzone inferiore, forse perché il pranzo non era pronto. Subito il ragazzetto dell'oste distese la tovaglia sopra una delle tavole che avrebbe dovuto essere ombreggiata dalle fronde del pergolato, ma questo era nudo. Intanto, con la più perfetta disinvoltura, questi giovanotti si erano messi a giocare alle bocce, aspettando che si cuocessero i maccheroni. E Raffaele specialmente andava e veniva quietamente con quella grazia popolaresca che inteneriva il cuore di Carmela. «Che tu possa essere benedetto», mormorava lei, un po' rassicurata da quella disinvoltura. Adesso, seduti ai quattro lati della tavola, tirando i maccheroni nel loro piatto da una larghissima scodella che era stata deposta nel mezzo, Raffaele e i suoi amici mangiavano, tirando continuamente, col grande appetito della giovinezza e quello che dà l'aria fine d'inverno e la freschezza della campagna. Bevevano molto e ogni tanto levavano sul bicchiere colmo del nero vino, dai riflessi bluastri, e guardandosi fissamente fra loro dicevano qualche cosa e tracannavano di un fiato senza fare una smorfia. Carmela, che non udiva le voci, capiva che portavano dei brindisi a qualche persona o a qualche cosa. Sino ad allora tutto procedeva come una semplice e lieta scampagnata invernale, in una bella giornata confortata di sole, in una grande quiete campestre. E l'osteria e l'oste sulla soglia, e il fanciullo che serviva la tavolata, e i quattro commensali avevano l'aria di una perfetta serenità, armonicamente fusa con la serenità intorno. Ma un nuovo rumore di ruote giunse dalla via dei Ponti Rossi e uno schioccare pomposo di frusta. Raffaele e i suoi amici levarono il capo, come per una mera curiosità, mentre Carmela, ferita al cuore da quel rumore, sentiva che le gambe le mancavano e pregava mentalmente il Signore perché le desse la forza di non morire in quel punto. Era una comitiva simile alla prima, di quattro giovanotti coi calzoni chiari e stretti al ginocchio, con la giacchetta nera attillata e il cappelletto abbassato sull'orecchio. Quello che conduceva la comitiva, Carmela lo riconobbe, Ferdinando Lammartenato. Disse qualcosa al cocchiere pagandolo e il cocchiere ascoltò abbassando il capo. Si allontanò lentamente per la via donde era venuto senza voltarsi. Le due comitive, guardandosi in faccia seriamente, si salutarono con molta correttezza e mentre Raffaele e i suoi continuavano a mangiare tranquillamente, quegli altri quattro si levavano i cappelletti e li appiccavano ai rami nudi degli alberi. E come la fine del pranzo si approssimava, Carmela sentiva vacillare la sua ragione. Ella vedeva salire e crescere nell'anima sua un solo desiderio, quello di scendere di lì, di prendere per il braccio Raffaele e di portarselo via con sé, lontano, dove non lo raggiungessero né camorristi né guappi. Non osava scendere, capiva che Raffaele l'avrebbe vilipesa e scacciata, come aveva fatto sempre, villanamente, negli ultimi tempi. Tremava di quella voce irata, di quelle parole di disprezzo. Adesso il pranzo finiva assai tranquillamente e già le due brigate fumavano i loro sigari, guardando in aria con la seria beatitudine di chi ha ben pranzato e di chi si prepara a ben digerire. E in certi momenti era tanta la pace che trapelava da tutte le cose intorno e tanta la tranquillità di tutti quei giovanotti che Carmela per un istante sentiva addormentarsi la sua angoscia, sperando che tutto fosse un tragico sogno. Ma l'orribile fatto che temeva, in un secondo, le apparve come una realtà. Pian piano Raffaele e gli altri tre giovanotti voltarono non per la via di Capodimonte, ma dietro l'osteria per l'orto e per i campi, seguendo la stessa strada dell'altra comitiva, raggiungendola, cioè camminando pacatamente, col loro passo elastico, uno dietro l'altro. Ah, ella non potette più durare, sentendo lacerarsi qualche cosa dentro. Corse alla porta della dispensa, la trovò chiusa, l'oste l'aveva serrata dentro. Ella, furiosa, cieca di dolore e di collera, cominciò a scuotere con le mani quella porta, che era vecchia e tarlata e che le oppose poca resistenza. Il paletto che l'oste aveva tirato si schiantò, ella per poco non precipitò sul pianerottolo per l'urto. A dirupo discese la scala esterna, ma sull'ultimo scalino trovò l'oste, che aveva udito tutto quel rumore e che era pallido nel suo volto raggrinzito di contadino, Costui le sbarrò il passo. Dove andate? Lasciatemi. Dove andate? Siete pazza? Lasciatemi. Egli le aveva afferrato i polsi e la guardava negli occhi. Siete voi la femmina per cui si vogliono ammazzare, eh? Madonna, assistimi, lasciatemi. Vi volete far uccidere? Sì, sì, lasciatemi. Volete che vi uccidano? Non importa, gridò lei, svincolandosi con una strappata possente. E correndo, affannando, singhiozzando, coi capelli disciolti sulla nuca che le sferzavano il collo, con la veste che le sbatteva intorno alle gambe, inciampando, rialzandosi, piangendo, empiendo quella serenità silenziosa campestre della sua disperazione, ella corse dietro alle due comitive, per la stessa via, voltando dietro la stessa collina di alberi verdi, trovandosi in una stretta via di campagna, seguendo per istinto, comprendendo che quella era da seguirsi. Andava velocissimamente, scoppiando di singulti, tendendo l'orecchio, interrogando il silenzio. Ma a dritta un rumore secco e stridulo la fece sussultare. E subito dopo un colpo di rivoltella si udì, seguito da altri. Ella si buttò nel campo dove le due schiere dei popolani duellatori continuavano a tirarsi dei colpi a poca distanza. Buttandosi addosso a Raffaele, ella urlò disperatamente. «Vattene!» disse lui, cercando di sciogliersi. «No!» urlò lei. «Vattene! No! Non è per te! Vattene! Non importa!» Questo in un minuto secondo. I colpi continuavano ancora, ripercuotendosi lugubremente nella campagna. In un intervallo ella scivolò lentamente per terra, con le braccia aperte, con una palla nella tempia. La caduta di Carmela fu il segnale della fuga. Tanto più che, violato brutalmente il gran silenzio verginale della campagna dai molti colpi di rivoltella, si udiva adesso arrivare gente dal villaggio di Capodimonte, dalla via dei Ponti Rossi. Precipitosamente le due schiere si dettero attraverso i campi per vie non tracciate e sparvero subito. Sul campo del dichiaramento non restò per terra, versando un rivolo di sangue dalla tempia, che Carmela. Accanto a lei, Raffaele, un po' pallido, cercava a stagnare la ferita, applicandovi un fazzoletto bagnato. Ma il sangue continuava a sgorgare, come da una fontanella, gorgogliando, facendo una rossa macchia intorno al capo della fanciulla. Ella aprì gli occhi e chiese fiocamente: «Dimmi per chi è stato. Non ci pensare. Pensa alla salute», disse lui, agitato, guardandosi intorno. «Adesso viene gente, scappa», disse ella, intendendo, pensando solo alla salvazione di lui. «Ti lascio così? Non importa, qualcuno mi aiuterà. Scappa o ti arrestano». «Addio», disse lui, sollevato. «Ci vediamo all'ospedale dei Pellegrini. Ti vengo a trovare». «Sì, sì», mormorò lei, chiudendo gli occhi e riaprendoli. «Scappa! Addio». Anch'egli fuggì, lestissimamente, senza voltarsi indietro. Ella lo seguì con lo sguardo, mentre, sollevata a metà, si appoggiava il fazzoletto alla tempia e il sangue seguitava a colare nel collo, sulla spalla, in grembo. Era sola. Abbassava la testa in una debolezza infinita. E quando arrivarono contemporaneamente dei contadini, il delegato di Capodimonte, due guardie, un carabiniere e un ortolano del Real Palazzo, dovettero sollevarla sopra una sedia che l'oste Babbasone aveva portata là. Andavano lentamente per la stessa via per cui ella era venuta, mentre ella giaceva con le gambe battenti ai pioli, con le braccia prosciolte e il capo che le batteva qua e là a ogni scossa della seggiola, versando larghe stille di sangue sul terreno. Innanzi all'osteria, dove ancora le due tavole erano coperte dalle tovaglie chiazzate di vino, la sedia fu posata. «Volete qualche cosa?» domandò il delegato, un uomo tarchiato e bruno. «Un po' d'acqua per bere», ella disse, schiudendo gli occhi lentamente, come se anche le palpebre le pesassero. Intanto, mentre si cercava una carrozza per trasportarla all'ospedale dei Pellegrini, le applicavano delle pezze bagnate nell'acqua fredda sulla ferita. «Come state?» domandò il delegato, che voleva procedere all'interrogatorio, vedendo che le forze le mancavano. «Meglio, non è niente». «Chi vi ha fatto questo?» «Nessuno», disse ella quietamente. Il delegato si strinse nelle spalle furioso, ma un altro interlocutore giunse dalla via dei Ponti Rossi. Una donna dal vestito di lana verde, tutto orlato color di rosa e dalla baschina di lanetta color granata, dai capelli neri lucidi tirati su, e dalle guance cariche di rossetto. Era Maddalena, la disgraziata sorella di Carmela. Ella giungeva affannata, con la fisonomia stravolta, con la pettinessa d'argento che non le reggeva più il cumulo dei neri capelli, con le scarpette di copale tutte impolverate, con un fazzoletto appoggiato alla bocca per reprimere i singulti. E quando vide folla intorno a una persona ferita, si buttò nel gruppo disperatamente, gridando, scostando le persone, gittandosi alle ginocchia di sua sorella, avendo in quel gesto tutto l'abbandono di un dolore immenso, strillando «Sorella mia! Sorella mia! E com'è stato?» L'altra aprì gli occhi e mostrò sulla faccia un senso di doloroso stupore. Con le deboli mani cercava carezzare i capelli neri di Maddalena, ma le dita livide tremavano. «Com'è stato, sorella mia?» esclamava singhiozzando clamorosamente Maddalena, mentre calde lacrime le rigavano le guance e le disfacevano il rossetto. «Così è stato», disse Carmela senz'altro. «Sorella mia, e chi ha avuto il coraggio di farti questo? Chi è stato l'assassino? Dove sta? Dove sta? Portatemelo avanti!» gridava Maddalena. «Cercate di sapere la verità», sussurrò all'orecchio della mala donna il delegato. E fece cenno agli altri di scostarsi un poco, di lasciare le due sorelle sole. Ora avevano fasciata la testa della fanciulla rozzamente e sotto quella benda il viso sembrava più minuto, più consunto, affilato da una mano diminutrice. «Sorella mia bella, sorella mia cara», piangeva Maddalena, sempre inginocchiata innanzi a Carmela. «Non piangere, perché piangi?» diceva la ferita con una voce singolare, grave, profonda. «Dimmi chi è stato», le chiese Maddalena. «È stato per Raffaele, non è vero? Eh? C'è stata una rissa. Ah, io lo sapevo, e non sono arrivata a tempo. Madonna, Madonna, che non mi hai fatto arrivare a tempo, e debbo per questo vedere una sorella così ridotta». Un lividore si era cosparso sulla faccia della ferita, udendo queste parole, e gli occhi si erano sbarrati. Con un forte sforzo levò un po' la testa e disse a Maddalena guardandola: «Dimmi la verità. Che vuoi, core della sorella? Voglio che mi dici. Ma pensa come mi vedi prima. Pensaci. Voglio che mi dici tutto». Allora l'altra, caduta in una nuova afflizione, tremò tutta e tacque. «Hanno fatto un dichiaramento», pronunziò a stento Carmela, tenendo gli occhi intenti in sua sorella. Erano otto. E ci stava Raffaele. Ci stava Ferdinando, l'ammartenato. E l'hanno fatto per una femmina». «Madonna mia, Madonna mia», seguitava a piangere Maddalena con la faccia fra le mani. «Chi è questa femmina?» disse la ferita, mettendo le mani sul capo della sorella e quasi forzandola a levare il volto. Quella non fece che guardarla con gli occhi pieni di lacrime. «Sei tu? Eh? Sei tu?» disse con voce cavernosa la ferita. E la maladonna si ributtò indietro. Levò le braccia al cielo e gridò: «Sono un'assassina! Sono un'assassina!» Il volto di Carmela si fece terreo. Sottovoce, borbottando, come se più la lingua non l'aiutasse, diceva anche lei: «Assassina! Assassina! Hai ragione, sorella mia! Sono un'infame!» gridava Maddalena, torcendosi le braccia. Subito dopo, tutta la benda da cui era circondata la testa della ferita si intrise di sangue largamente e cominciò a gocciolare sangue dal naso. Il delegato, che era accorso, aggrottò le sopracciglia e fece cenno alla carrozza, che si avanzava per trasportare la ferita all'ospedale dei Pellegrini, di fermarsi. «Sorella mia, perdonami! Sorella mia cara!» piangeva Maddalena, stramazzata ai piedi della sedia. Ma quella non udiva più. Le rigava la bocca il sangue che le colava continuamente dal naso e cadeva sul petto, e il terreo pallore del viso si allargava al collo. Gli occhi socchiusi mostravano solamente il bianco. Le mani appoggiate sulle ginocchia raspavano la misera lanetta scura del vestito, come se cercassero, con quel gesto che fa una straziante impressione di terrore e di pietà. Ad un tratto schiuse la bocca, mancandole il respiro. Sara mia, gridò Maddalena, comprendendo, levandosi sulle ginocchia, anelando. Ma dalla bocca, violetta già, uscì un altissimo e lunghissimo grido, profondo come strappato dalle viscere, straziante, doloroso, come se in esso si unissero tutti i clamori di dolore di una vita. Un grido così forte e lugubre che tutto parve si scotesse intorno, uomini e cose, e che la campagna si scolorisse. La mano destra di Carmela vagamente cercò ancora qualche cosa e finì per trovare la testa di Maddalena, su cui si posò, su cui si raffreddò, su cui si gelò. Gelida era la fisonomia della morta, ma oramai tranquilla e silenziosamente curva sotto quella mano perdonante la superstite. E tranquilla, silenziosa, la campagna intorno. Teresa Saponangelo ha letto Il paese di Cuccagna di Matilde Serao, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.